Mango Tart legge Mena Cold di Sen Lin Yu. Capitolo 11. Malfoy rise debolmente. Ti piace? Chiese. Lei inclinò la testa di lato. Era facile da guardare ora che non si sentiva spaventata o sopraffatta dall'odio. Aveva la consapevolezza cosciente che lui fosse pericoloso, ma il suo corpo non aveva alcuna reazione fisica, nessuna torsione allo stomaco, nessun battito cardiaco triplicato, come se fosse una statua. «Mi sembra di essere morta», disse. Lui annuì, come se l'affermazione non lo sorprendesse. «Gli effetti sono temporanei, svaniranno dopo 12 ore e alla fine diventerà immune». Dovrebbe funzionare abbastanza a lungo da permetterti di acclamarti al Menor e alla tenuta. Hermione lo fissò. Ora ti comporti diversamente con me. Sei meno cattivo. Perché lo fai? Disse, aggrottò la fronte, confusa. Apparentemente era ancora capace di sentirsi confusa. Lui aggrottò un sopracciglio e si chinò in avanti così vicino che il suo respiro le sfiorò le labbra. «Non lo sto facendo per te, sangue sporco», le disse dolcemente all'orecchio. «Lo sto facendo per me. Tanto non reagiresti comunque». Si raddrizzò. «Vedi? Niente. Nessuna accelerazione dei battiti. Potrei metterti di fronte a un molliccio o piegarti su un tavolo e non batteresti ciglio. Non è molto divertente». Hermione annuì pensierosa. «Se avesse voluto suicidarsi... sarebbe stato più facile farlo mentre era sotto l'effetto della pozione. Malfoy avrebbe potuto non essere in grado di rilevare nulla fino a quando non fosse stato troppo tardi. Lui divenne di pietra. Fece un gesto verso la porta. «Andiamo!» Andò a prendere il mantello e lo seguì fuori. Si fermò sulla veranda e la guardò mentre scendeva le scale, da sola. La neve era stata tolta dal sentiero di ghiaia, ma poteva sentire il freddo che già le mordeva le dita dei piedi attraverso le scarpe. Era pungente quel giorno. Esitò per un momento, cercando di decidere dove andare. Poi si avvicinò al labirinto di siepi. In tutte le sue passeggiate con Malfoy, lui non ci era mai entrato. Era piuttosto curiosa di sapere se sarebbe riuscita a trovare la strada per attraversarlo. Era enorme. Le siepi la sovrastavano. Dubitava che la siepe di Malfoy avrebbe cercato di mangiarla o che contenesse qualche creatura oscura. Vagò per il sentiero tortuoso e sinuoso e pensò alla pozione che le aveva fatto ingoiare a forza. Ebbe il pensiero passeggero che lui se ne drogasse per essere un bastardo così freddo e malvagio. Ma lo scartò dopo un attimo di riflessione. L'anatema che uccide era una magia basata sulle emozioni. Impossibile da lanciare con distacco. Anche se lui sembrava terribilmente capace di piegare in qualche modo le regole di quella maledizione. Mettendo da parte Malfoy e il mistero del suo pozzo di odio senza fondo, avrebbe potuto usare la pozione. Poteva fare molti più progressi nel cercare di fuggire sotto l'effetto della pozione di quanti ne avesse fatti nell'ultimo mese. Tanto che sembrava sospettosamente negligente da parte di Malfoy. Si fermò a riflettere. Non era disattento, non importava quanto odiasse controllarla, non sarebbe mai stato disattento. Ci doveva essere qualche tipo di protezione che lo rendeva abbastanza sicuro da darle qualcosa di così potente. Non avrebbe mai rischiato altrimenti, anche se trovava che monitorarla fosse una forma di tortura. Come poteva essere certo che non avrebbe fatto nulla quando il suo battito cardiaco e le sue pulsazioni non erano in grado di dargli un'indicazione? Si era quasi buttata da un balcone e lui aveva fatto appena in tempo a fermarla. Sapeva esattamente quando doveva materializzarsi. Si guardò i polsi. Doveva averlo percepito attraverso le manette. Ma come aveva saputo di dover intervenire allora? Senza però mai preoccuparsi di materializzarsi durante i suoi attacchi di panico. Un incantesimo di localizzazione, anche il più accurato possibile, non poteva distinguerlo con precisione. A meno che... Malfoy non stesse in qualche modo leggendo la sua mente attraverso le manette. Non appena il pensiero le balenò in mente, si sentì sicura di avere ragione. Come? Non ne era certa, ma era disposta a scommetterci. Che irritazione! Avrebbe dovuto essere infuriata, ma non riusciva ad evocare la rabbia. Avrebbe dovuto essere inghiottita dalla disperazione, ma l'aggravante intellettuale era il massimo che poteva sentire. Come se la sua regimansia non fosse già abbastanza invasiva. Come se non rovinasse nella sua mente come se fosse il suo personale piatto di ostriche. Ora era certa che leggesse la mente anche con le manette. Non aveva mai toccato i suoi pensieri. L'aveva notato. Si ricordò come Piton era solito farlo con gli studenti. Immergersi nei loro occhi e cogliere ciò che era in primo piano. Quando aveva stabilito un contatto visivo con Malfoy, lui non si era mai preoccupato di farlo. Si voltò, uscì dal labirinto di siepi e tornò verso la veranda, dove lui sembrava immerso in un libro di alchimia. Chiuse il libro di scatto e la guardò mentre lei stava in piedi a fissarlo, mani sui fianchi. Non poteva dire nulla, ma poteva farglielo capire. Lui sembrò rendersi conto che non poteva parlare e si limitò a sorridere debolmente e guardarla di nuovo. «Sì?» disse finalmente dopo quasi un minuto. «Mi leggi nel pensiero?» chiese lei. Lui sorrise ampiamente. «E ci è voluto solo un mese perché te ne rendessi conto», disse in una finta lode. «Anche se, ora che ci penso, sei stata piuttosto occupata a piangere e a deprimerti e ad avere paura dei corridoi e del cielo». La cosa bella di non avere emozioni era che la cattiveria di Malfoy era semplicemente come un sassolino gettato in uno stagno, un piccolo rapido schizzo nella sua impermeabilità mentale e poi di nuovo quiete e indifferenza. «Com'è possibile?» chiese alzando un sopracciglio scettico. La cosa sfidava diverse leggi fondamentali della magia. «Stai tranquilla, sangue sporco. Non leggo tutti i tuoi pensieri. Se dovessi sottomettermi al flusso costante della tua coscienza, probabilmente mi farei fuori da solo. Ti tengo d'occhio solo quando stai facendo qualcosa di interessante. E la cosa mi risparmia di dovermi materializzare solo perché stai cercando di scendere una scala». Senza pozione sarebbe avvampata dalla rabbia la sua presa in giro, ma l'Hermione presente sbatté le palpebre e considerò l'informazione. Quindi non era una cosa costante. Era una cosa buona da sapere. Ma quando qualcosa si fermava abbastanza nella sua mente, lui era in qualche modo in grado di scavare e leggere i suoi pensieri più intimi. E quello era un problema. Lo studiò. Avrebbe dovuto capire il mezzo con cui lui la stava controllando, qualsiasi fosse. La Umbridge l'aveva descritto come un incantesimo creato dal capofamiglia. Non era sicura di cosa potesse essere. I ciondoli magici erano normalmente qualcosa di metallo, per incanalare la connessione magica, e dovevano essere indossati. Collane, braccialetti e anelli erano i più comuni. Malfoy non sembrava indossare alcun gioiello, nemmeno la fede. L'unico gioiello visibile su di lui era l'anello nero sulla mano destra. Forse era quello. «Non puoi rubarlo», disse Malfoy. Lei lo guardò bruscamente. «Non è un oggetto, non è questo», disse, e alzò la mano per mostrarle l'anello che aveva addocchiato. Se lo sfilò dal dito e glielo lanciò. Lei lo prese di riflesso e lo studiò. Era una specie di metallo nero. Non sembrava avere alcun tipo di firma magica, come quella collegata alle manette. Ma forse lo era. Forse stava mentendo. Forse stava cercando di fuorviarla. Si chiese cosa avrebbe fatto se l'avesse ingoiato. Lui scoppiò a ridere. «Non ingoiarlo». Lei alzò lo sguardo bruscamente e lui aggrottò un sopracciglio. Sorrise e tese la mano. Lo lasciò cadere con riluttanza nel suo palmo. E lui se lo fece scivolare di nuovo al dito. «Come ho detto, non è una cosa. Non puoi rubare la traccia, non quella su di te. Hanno usato la magia del sangue per creare le manette». Hermione lo fissò stupita. «Sono nella tua testa?» disse, e aprì leggermente la bocca quando la realizzazione la colpì. Le avevano preso il sangue. Quando era a Hogwarts, le avevano preso delle fiale di sangue e dei capelli. Aveva pensato che fossero per i test genetici. Non le era venuto in mente che sarebbero stati usati per eseguire un rituale di magia. Questo significava che lei era legata alla coscienza di Malfoy. Poteva percepirla in fondo alla sua mente. Era come le barriere imposte su tenute e castelli, che creavano una connessione subconscia con il signore che ne era in possesso. Le protezioni di sangue permettevano al proprietario di rilevare quando qualcuno entrava o cercava di manomettere qualcosa. Hermione esisteva nella mente di Malfoy in modo simile. Se non fosse stata completamente priva di emozioni, sarebbe rimasta scioccata dall'orrore. Lui annuì. «Sei la sangue sporco di Potter. Hanno ritenuto necessarie ulteriori misure di sicurezza. Quindi stabiliamo ora come funzionano le cose. Io saprò sempre cosa stai facendo e sarò sempre in grado di trovarti, a meno che tu non riesca a toglierti quelle manette». Le guardò e fece un lieve sorriso. «Mi piacerebbe molto vederti tentare una cosa del genere». Rise. «Forse puoi iniziare seducendomi», le consigliò, appoggiandosi alla sedia e guardandola dall'alto in basso. «Ruba il mio cuore con la tua arguzia e il tuo fascino». Hermione sgranò gli occhi. «Giusto. Magari domani», disse lei, la mente che già s'agitava. «Bene, tutto questo è stato molto illuminante», disse lei. «Non disturberò ulteriormente la tua lettura». Poi girò i tacchi e tornò indietro nel labirinto di siepi. Le sue opzioni si erano ulteriormente ridotte. Malfoy chiaramente non si aspettava che scappasse. Non sembrava neanche preoccupato della cosa. Non poteva biasimarlo. Neanche lei si aspettava di riuscire a scappare. Prima era una sciocca speranza. Ora sembrava un'idiozia totale. Sospirò debolmente e guardò il suo respiro disperdersi come una nuvola nell'aria fredda. Una volta svanito l'effetto della pozione, sarebbe tornata gravemente depressa. Esplorò l'intero labirinto. Aveva i piedi intorpiditi dal freddo e bagnati quando uscì di nuovo. Tornò zoppicando alla veranda. Malfoy non disse nulla e lei lo superò e rientrò nel Manor, salendo da sola nella sua stanza. Per quanto fosse priva di emozioni, era bello sentirsi di nuovo una persona funzionante. Niente dolore, niente paura, niente depressione o disperazione. Non doveva preoccuparsi che il suo corpo la tradisse con un attacco di panico. La pozione avrebbe facilmente potuto crearle dipendenza. Non che Malfoy l'avrebbe mai permesso. La Stroud aveva menzionato come potesse interferire con la gravidanza, quindi probabilmente le sarebbe stata somministrata solo per un breve periodo. Avrebbe voluto saperne di più sulla gravidanza magica. Era stato un aspetto largamente trascurato nella sua formazione di guaritrice. Con una pergamena e una penna d'oca avrebbe potuto scrivere un saggio di 30 centimetri sulle pozioni per l'ansia e su come interagivano con la magia curativa e le maledizioni oscure. Ma la gravidanza era esclusa dalla guarigione delle vittime. Quasi nessuno aveva figli durante la guerra e, se li aveva, smetteva di combattere e andava da un'ostetrica. Si chiese come fosse stata fatta la pozione. Era quasi certa che contenesse bava di mirtillo, valeriana e fagiolo soporifero, forse anche muco cerebrale di bradipo. Ripensò al sapore e al formicolio che aveva sentito quando l'aveva inghiottita. Forse era una reazione della bava combinata con lo sciroppo di elleboro. Era bello avere qualcosa di nuovo a cui pensare. Da quando era iniziata la guerra, sentiva il cervello come ferito a fondo, affamato di qualcosa di nuovo a cui pensare. Era piena di passato. Lo rivedeva, ancora e ancora, chiedendosi cosa fosse andato storto. Era come un macigno. La trascinava sempre di più verso il basso, inesorabilmente indietro, mentre si chiedeva ancora e ancora cosa fosse andato storto. L'aveva saputo? Aveva saputo perché l'ordine aveva perso la guerra? Lo sapeva e nascondeva quell'informazione? Aveva scelto di torturarsi nascondendolo. Perché? Come aveva detto Malfoy, avevano perso la guerra. Cosa si sarebbe preoccupata di proteggere dopo, sapendo che tutti quelli a cui teneva erano già imprigionati o morti? Come la morte di Silente, i dettagli che circondavano la fine della guerra erano annebbiati. Non riusciva a ricordare perché fossero andati ad Hogwarts, non ricordava nemmeno di essere stata catturata. Ricordava che Harry fosse morto, e poi era in una gabbia a guardare i Weasley che venivano torturati. Aveva pensato che avesse avuto un vuoto di memoria, per lo shock. Esplorò l'intera ala del Manor da cima a fondo prima del tramonto. Le soffitte, ogni armadio, le scale e le gallerie della servitù. Non passò al vaglio le stanze, ma sperava che se avesse preso familiarità con esse sarebbe stata in grado di tornare senza farsi prendere dal panico o avere un esaurimento nervoso, anche senza la pozione. Si chiese quanti elfi domestici avessero i Malfoy. Non c'era una ragnatela nemmeno negli angoli più bui della soffitta. La mattina dopo si svegliò, sentendosi come se le avessero posto un macigno sul petto. Inchiodata al letto e sopraffatta dalla sferzata di disperazione che non era riuscita a provare il giorno prima, lottò per trovare il respiro. La tregua di 12 ore che aveva avuto rese tutto il suo dolore emotivo ancora più forte. Lo mise in netto rilievo. Non si era resa conto di quanto profondi fossero i tagli del dolore e della solitudine dentro di lei finché non se n'era liberata per un breve periodo. Quando quel peso si abbatté su di lei, ancora una volta si sentì ridotta in polvere. Poteva quasi avvertire i bordi di se stessa sgretolarsi e rompersi, dissolversi nell'etere. Non era rimasto quasi nulla di lei, se non il dolore. Sentiva la spina dorsale e la parte posteriore del collo calde, mentre il resto del suo corpo era umido e freddo come il ghiaccio. La pelle era umida, come se avesse trasudato via la pozione durante la notte. Rotolò dal letto e vomitò sul pavimento prima che potesse arrivare al bagno. Si accasciò rabbrividendo. Sentiva il corpo debole. Riusciva a malapena a muovere le braccia. Voleva fare una doccia, ma aveva troppo caldo e troppo freddo insieme. Aveva sete, un disperato bisogno di acqua. Voleva un abbraccio. Una nuova ondata di solitudine la colpì così bruscamente che scoppiò in lacrime. Essere malata e debole la faceva sentire di nuovo bambina, desiderosa che sua madre la coccolasse e le mettesse una mano sulla fronte per avere conforto. Non riusciva a ricordare nemmeno lei, ma le mancava comunque. Ricordava di essere a letto e di avere le dita fresche sul viso, che le scostavano una ciocca di capelli dalla fronte e poi le si posavano sulla guancia. Quando l'ondata di nausea finalmente passò, si trascinò in bagno e dopo aver bevuto diversi bicchieri d'acqua, si lasciò cadere in un bagno tiepido. Era come avere i postumi di una sbornia mentre si era malati di influenza. Forse era l'astinenza. Non aveva mai sperimentato una dipendenza da droghe, per quanto potesse ricordare. Naturalmente Malfoy non l'aveva avvertita che si sarebbe sentita morire una volta che la pozione fosse svanita. Lo maledisse con forza nella mente e sperò che lui lo sentisse. Voleva annegare. Quando tornò nella sua stanza, il pavimento era stato pulito. Si sentiva ancora febbricitante. Tolse le coperte dal letto e vi si rannicchiò dentro, premendo la guancia alla finestra. Era stata male tutto il giorno e apparentemente Malfoy l'aveva previsto, perché non si era presentato aspettandosi che lei uscisse. Il pomeriggio seguente arrivò senza dire una parola, nonostante le maledizioni che lei gli aveva lanciato, e la condusse fuori in veranda. Scoprì che la pozione l'aveva in qualche modo fatta abituare. Riuscì a camminare fuori dalla veranda senza avere un attacco di panico totale. Tremava e doveva ancora lottare contro l'iperventilazione, ma la paura non la inghiottiva. Attraversare la ghiaia ed entrare nella siepe fu la cosa più difficile, ma una volta che fu tra i tassi torreggianti, sfiorando con le dita le pareti e concentrandosi sul suo percorso, riuscì a respirare in modo più o meno uniforme. Quando tornò alla veranda, Malfoy se n'era andato, apparentemente soddisfatto di non essere più obbligato a controllarla o accompagnarla. La pozione apparve di nuovo la mattina dopo. Hermione passò diverse ore a valutare con se stessa se prenderla di nuovo. Il solo pensiero di passare un altro giorno in astinenza la nauseava. Alla fine strinse i denti e la bevve. Si insinuò nel Menor come un'ombra ed esplorò l'ala principale. Era costantemente allerta per cogliere il picchiettio acuto delle scarpe di Astoria. Non aveva più incontrato la strega dalla notte in cui l'aveva portata nella stanza di Malfoy, ma aveva intravisto di tanto in tanto qualcuno che osservava dalle finestre quando lui la portava fuori. Non era interessata a verificare se le prime minacce di Astoria fossero state sincere. Quel giorno esplorò la maggior parte dell'ala principale. C'erano così tante porte chiuse a chiave che si rese conto che probabilmente Malfoy aveva sigillato il Menor con il suo sangue. L'aveva ingabbiata nella sua stessa firma. Il giorno dopo, l'astinenza fu ancora peggiore. Poi, 3 giorni dopo, la pozione non apparve a colazione. Sospettava di sapere perché e riuscì a malapena a mangiare. Camminò nervosamente in tondo per la stanza e poi andò a sedersi sotto il getto della doccia in fondo al corridoio per un'ora, mentre cercava di smettere di tremare. Dopo cena, un elfo apparve per portare via i piatti. «Devi prepararti per stasera!» disse, prima di scomparire. Hermione si sedette, congelata. L'aveva supposto. La conferma la fece sentire ancora peggio. Avere un mese in più per temerlo rendeva l'orrore più freddo. Era come se qualcosa stesse attorcigliando i suoi organi in un nodo sempre più stretto, finché le sembrò che stesse per strapparsi. Aveva il petto così contratto che riusciva malapena a fare dei respiri, anche se poco profondi. Andò in bagno e si lavò. Quando riemerse, si ritrovò a guardare ripetutamente verso il centro della stanza. Era terrorizzata che Malfoy potesse scegliere di variare l'esperienza. Si ritrovò ad aggrapparsi alla speranza che il tavolo sarebbe apparso e lui non avrebbe fatto nulla di nuovo. Non voleva essere violentata in un altro modo. Quasi singhiozzò di sollievo quando il tavolo apparve, esattamente alle 7:30. Voleva prendersi a schiaffi. In quale mondo di orrore una donna era felice perché veniva stuprata in un modo familiare? Malfoy arrivò e se ne andò per 5 sere senza dirle una parola, esattamente nello stesso modo in cui aveva fatto durante il mese precedente. Ogni sera Hermione stringeva il tavolo e immaginava di preparare la pozione calmante. Aveva così tanto tempo libero per rimuginare sulle cose che aveva cominciato a cercare di indovinare come crearla al contrario. Cercò di renderla il più reale possibile, di ricreare gli odori e le sensazioni. Era esigente riguardo i dettagli, ossessiva, lontana dal dondolio, dal morso del legno nelle ossa dell'anca, dalla sensazione di scivolamento dentro di lei che si rifiutava di permettere alla sua mente di analizzare. Lei non era lì. Stava preparando una pozione. Prendeva un calderone di peltro dallo scaffale, usando uno sgabello. Con un pratico colpo di bacchetta evocava una fiamma. Aspettava che il metallo raggiungesse una temperatura media prima di aggiungere la bava del pungiglione di un billywig. Teneva la fiala nella mano destra e la rovesciava. L'odore pungente le solleticava il naso. Il peltro e il calore avrebbero fatto evaporare le proprietà antidolorifiche della bava dopo averla fatta bollire per 1 minuto. Imbottigliava il vapore per usarlo come anestetico su ferite localizzate. Toglieva un cervello di bradipo da un barattolo e con un lungo coltello lo affettava così sottilmente che i pezzi diventavano trasparenti. Il cervello sotto la sua mano era spugnoso e delicato. Il suo tocco doveva essere molto leggero, in quanto la lama del coltello era affilata come un rasoio. Dopo 1 minuto riduceva la potenza della fiamma a un fuoco lento e aggiungeva le fette di cervello e di bradipo in superficie, lasciandole 2 minuti per farle amalgamare. e guardando la pozione virare lentamente ad un colore blu acciaio con una consistenza viscosa. Nel frattempo preparava il fagiolo soporifero. Gliene servivano 20. Li schiacciava sotto la lama del pugnale d'argento prima di estrarne il succo. Sentiva la pressione della nocca del pollice mentre proseguiva. Immaginava la sensazione del fagiolo che cedeva sotto la sua lama. Una volta aggiunto il succo, mescolava la pozione 12 volte in senso orario con una bacchetta d'argento e poi 8 volte in senso anti-orario con una bacchetta di cenere. Poi copriva la pozione e la lasciava in infusione a bassa temperatura per 73 ore. L'infusione lenta era necessaria per annullare le proprietà sonnolente del succo soporifero. La pozione diventava verde pallido. Alla 74esima ora aggiungeva dei tentacoli di montone tritati, un calamaro schiacciato, valeriana e gusci d'uovo di frassino in polvere. La portava a rapida ebollizione per 30 secondi e poi usava un incantesimo di raffreddamento per ridurre la temperatura appena sopra il congelamento. La pozione diventava blu notte, di consistenza acquosa. Poi faceva gocciolare lo sciroppo di elleboro sulla superficie, una goccia ogni 10 rotazioni lente, in senso orario e poi antiorario. Il braccio le si era leggermente affaticato. 30 gocce in tutto, finché la pozione non si addensava e si attaccava alla bacchetta di cenere. Mescolava poi 3 volte con una bacchetta d'argento e la portava a bollore per 5 minuti prima di toglierla dal fuoco e lasciarla scendere a temperatura ambiente senza magia. La pozione diventava grigio scuro e sciropposa. Ne produceva 25 dosi. La preparò nella sua mente ogni sera, regolando quantità e tecniche, rivedendo l'ordine degli ingredienti aggiunti. Alla quinta sera era quasi sicura di aver capito l'intera ricetta. Il sesto giorno si costrinse ad uscire da sola per paura che altrimenti Malfoy si sarebbe presentato e le avrebbe ordinato di farlo. Combattere la sua agorafobia, aveva deciso. Era la sua prima priorità. Qualsiasi piano che coinvolgesse Malfoy avrebbe aspettato fino a quando non fosse riuscita ad andare all'aperto costantemente. Nel profondo sospettava di essersi solo illusa e di averlo evitato, ma non sapeva come indurlo a ucciderla quando non poteva nemmeno parlargli senza il suo permesso. Quanto a sedurlo, secondo il suo suggerimento, beh, l'idea era così assurda da risultare quasi ridicola. Il giorno dopo lui si presentò nella sua stanza, la inchiodò al letto e fece a pezzi i suoi ricordi. Le parlò a malapena. Quando ebbe finito, semplicemente girò i tacchi e se ne andò. Dopo 2 giorni, sognò Alastor Moody, in piedi davanti a lei in un piccolo ripostiglio, con l'occhio che si muoveva roteando, come sospettoso. Le parole che si scambiavano erano indecifrabili, come fossero sott'acqua. Lui la guardava intensamente mentre diceva qualcosa, osservando la sua reazione. Ricordava di essersi sentita scettica ma determinata. Moody disse qualcos'altro e Hermione scosse la testa. Lui annuì bruscamente e quando si voltò per andarsene era duro come la pietra. Ma il suo occhio, quando si voltò, esitò un attimo. Alastor non esitava mai. Dopo, lei rimase sola per diversi minuti. Non sapeva cosa significasse. Cercò di non soffermarcisi. Esplorò l'ala principale del Manor. Ai ritratti era apparentemente proibito parlare con lei. La guardavano con un occhio attento, ma non dicevano mai una parola. Esplorò il labirinto di siepi finché non riuscì ad attraversarlo ad occhi chiusi. Non riusciva a stare in nessun altro posto all'aperto, a meno che non si insinuasse lungo il lato del Manor. Gli spazi aperti erano ancora molto difficili da percorrere. Non riusciva nemmeno a staccarsi dal muro quando camminava lungo i corridoi più grandi e riusciva malapena a mettere il piede nella sala da ballo nell'ala principale della casa. Dopo 10 giorni, la guaritrice Stroud arrivò di nuovo per vedere se Hermione fosse incinta. Non lo era. Si era esercitata parecchio nell'incanalare la rabbia. La guaritrice Stroud fu contenta di vedere il miglioramento delle sue condizioni fisiche. Il giorno dopo, Quando entrò nella sua stanza ancora tremante per la camminata, trovò Malfoy lì, ad aspettarla, in divisa da mangiamorte. «Ti va una gita, sangue sporco?» Lui la fissò, osservando ciò che indossava. Il suo viso era una maschera inespressiva mentre si avvicinava. «Te ne sei dimenticata?» chiese, gli occhi d'argento accesi. 2 mesi. Nessuna gravidanza. Il signore oscuro è ansioso di vederti.» L'afferrò per un braccio prima che lei potesse indietreggiare e si smaterializzò.